Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donnelly, cancelliera di Un Mondo Libero, e sicuramente un riconoscimento che per appunto la cancelliera tedesca è strettamente legato a quelle scelte che ha compiuto al termine dell'estate, quando nel pieno della crisi sulla rotta balcanica decise di aprire per motivi umanitari destinazioni all'interno della Germania appunto per i profughi siriani. Da qui ripartiamo proprio mentre l'anno volge al termine con un appuntamento, quello del 17 e 18 dicembre, vertice UE. All'interno di quell'appuntamento dovrebbero essere definite alcune linee sulla politica europea di migrazione, il grande tema che ha di fatto tenuto banco proprio in questo 2015, e ci sono alcune anticipazioni. Istituzioni UE e Stati devono assicurare le registrazioni dei migranti, adottare misure per scoraggiare il rifiuto di quelli che non vogliono farsi identificare e sottoporre alla raccolta delle imprese. Insomma, si stringono in qualche modo le maglie, come è annunciato anche dagli eventi, dagli sviluppi. Tutto questo intanto mentre Bruxelles, domani salvo ripensamenti, dovrebbe aprire una procedura di infrazione per mancato rispetto delle regole su Eurodac rispetto all'Italia, esattamente le regole sul controllo e la registrazione di cui appunto si dovrà occupare il vertice del 17. Servizio. Per il lavoro svolto dall'Italia meritiamo solo un grazie dall'Unione Europea, lo ha detto oggi il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, alla vigilia del giorno in cui Bruxelles potrebbe decidere una procedura di infrazione contro l'Italia, ma anche la Grecia, per il mancato rispetto delle regole sul sistema europeo di raccolta delle impronte digitali dei migranti. Se dovesse accadere, sarebbe una scelta del tutto irragionevole, fuori dal tempo e dalla storia, ha insistito Alfano. Per Roma, la registrazione e la messa a punto degli hotspot devono andare di pari passo con i ricollocamenti dei rifugiati verso gli altri paesi europei, che già prima degli attentati di Parigi procedevano con il contagocce e ora sono del tutto fermi. Tutto questo mentre oggi la polizia greca, in tenuta antisommossa, ha chiuso il valico di frontiera con la Macedonia. E mentre questa notte un barcone carico di migranti è affondato nel mare Egeo davanti alle coste della Turchia, vicino all'isola greca di Farmakonissi, 11 le vittime, fra cui altri 5 bambini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso invece parliamo di droni. Spesso ne sentiamo parlare, soprattutto in temi legati alle attività militari, ma i droni sono soprattutto degli strumenti commerciali, strumenti appunto utilizzati e testati anche per la distribuzione e la vendita. Tutto questo per la Commissione Europea però solleva il problema: manca un quadro legale. Sentiamo. 5 milioni gli europei che lavorano in questo settore, centinaia di miliardi di euro il contributo che viene fornito al PIL dei 28 paesi, mentre si calcola che nel 2035 il traffico aereo nel vecchio continente sarà di oltre 14 milioni di voli, il 50% in più del 2012. Sono i numeri diffusi dalla Commissione Europea sul traffico dei droni, piccoli strumenti radiocomandati che vengono utilizzati non solo in ambito militare ma anche sempre più in ambito commerciale e ricreativo, l'industria del futuro, di cui la necessità di mettere in piedi un quadro legale che consenta al settore europeo di decollare davvero. L'intenzione è confermata nella nuova strategia per l'aviazione della Commissione Europea presentata lunedì a Bruxelles, secondo cui i droni rappresentano un'opportunità eccezionale che va dall'industria aeronautica alle piccole e medie imprese. In particolare, si legge nella comunicazione di Bruxelles, occorre assicurare il loro uso sicuro nello spazio aereo civile e creare certezza legale per l'industria e dunque conciliare anche qui sicurezza, privacy, protezione dei dati personali, responsabilità, assicurazioni, ambiente, una sfida non da poco. Oltre al quadro legale di base su cui lavorerà Bruxelles, sarà l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea a preparare le regole più dettagliate sulle operazioni consentite ai droni, regole che dovrebbero vedere la luce entro fine anno. Intanto, a riprova del fatto che l'Europa punta su questo settore, è il recente stanziamento di 24 milioni di euro per la ricerca di nuovi prototipi di droni made in Europe all'interno del Security Research Program, un programma da 1,7 miliardi di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora siete tutti convocati da Carlo Genta. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.